Terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. La prima cosa da fare, si disse Alice mentre vagava per il bosco, è tornare alla mia statura normale, e la seconda, trovare il modo di entrare in quel giardino così incantevole. Questo mi sembra un fiorfiore di piano. Il piano di Alice effettivamente non faceva una grinza, semplice e ben congegnato. Il suo unico punto debole era che non aveva la minima idea di come realizzarlo e, mentre scrutava ansiosamente qui e là fra gli alberi, un acuto latrato proprio sopra di lei le fece alzare di scatto la testa. Un cucciolo enorme la stava guardando dall'alto con occhioni grandi, grandi, e allungando una zampa più che poteva cercava di sfiorarla. «Povero piccolino», disse Alice per ingraziarselo, e tentò di emettere un fischio, ma le labbra le tremarono al pensiero che fosse affamato e che probabilmente se la sarebbe fatta fuori in un boccone malgrado tutte le sue moine. Senza sapere bene quello che faceva, raccolse un rametto e lo porse al cucciolo, che spiccò un balzo subitaneo formidabile e, mugolando di gioia, si avventò sul rametto come per acchiapparlo. Allora Alice, per evitare di essere spiaccicata, corse dietro un grosso cardo, ma non appena riemerse dal nascondiglio, il cucciolo si avventò di nuovo sul ramoscello e, nella smania di afferrarlo, finì ruzzoloni per terra. Alice pensò che giocare con questo cucciolo era pericoloso, come con un cavallo da tiro, e poiché rischiava ogni istante di finire sotto le sue zampe, si riparò di nuovo dietro il cardo. Il cucciolo dette inizio a una serie di cariche al ramoscello, correndo ogni volta un poco in avanti e molto all'indietro, senza smettere di abbaiare rabbiosamente, finché non si mise a sedere a una distanza rassicurante, tutto affannato, con la lingua a penzoloni e gli occhioni socchiusi. Alice realizzò: o adesso o mai più, e senza perdere un istante se la diede a gambe e seguitò a correre finché, esausta e senza fiato, non udì il latrare del cucciolo echeggiare ormai lontano alle sue spalle. «E pensare che era un cucciolino così carino», disse, concedendosi un riposino appoggiata contro un gambo di ranuncolo e facendosi aria con una delle foglie. «Oh, quanto mi sarebbe piaciuto insegnargli dei giochini, se solo fossi dell'altezza giusta per farlo! Oh, cielo! Stavo per dimenticarmi che devo crescere di nuovo. Vediamo un po' come si può fare. Deduco che dovrò mangiare o bere qualcosa da mangiare o da bere, ma il problema è cosa?» Che il problema fosse cosa? Non c'era dubbio. Alice si diede uno sguardo intorno, fra i fiori e i fili d'erba, ma non riusciva a scorgere niente di commestibile o potabile per lei. Lì accanto cresceva un grosso fungo, più o meno della sua altezza, e dopo aver guardato sotto e da entrambi i lati e dietro, le sembrò anche il caso di dare un'occhiata in cima. Si alzò sulle punte dei piedi e sbirciò sopra la cappella. Subito il suo sguardo incrociò quello di un grande bruco celeste seduto in pizzo al fungo con le braccia conserte, che fumava uno smisurato narghilè senza dare il minimo peso né a lei né a qualsiasi altra cosa al mondo. Can't see me, but I can you. Blazing in the foggy dew, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. lights come the light. Sleeping on a dandelion. Too much, I won't touch you, but then I might. Swimming through the starlit sky. Larvato consiglio di Bruco. Il Bruco e Alice rimasero a guardarsi per qualche tempo in silenzio. Alla fine il Bruco si tolse di bocca il narghilè e le si rivolse con voce languida e sonnacchiosa. «Chi sei tu?» disse il Bruco. «Oh, poco incoraggiante come inizio per una conversazione!» Io, ora come ora, non saprei, signore, rispose Alice alquanto timidamente. Al massimo potrei dirle chi ero quando mi sono alzata stamattina, ma da allora c'è stata una tale baraonda di cambiamenti. Che vuoi dire? Disse il Bruco severamente. Spiegati. Spiacente, ma non posso spiegarmi, signore, disse Alice, perché io, vede, non sono più io. Non vedo, disse il Bruco. Mi dispiace, signore, ma più chiaro di così, disse Alice con molto bel garbo. Il fatto è che io per prima non ci capisco niente. E passare da una corporatura all'altra parecchie volte nello stesso giorno sapesse come confonde le idee. Ma che? Disse il Bruco. Ma... forse perché lei non ha ancora fatto la prova, disse Alice. Ma quando dovrà trasformarsi in una crisalide, e prima o poi le capiterà, e poi da crisalide in farfalla, vedrà che si sentirà un po' sottosopra anche lei. Storie, disse il Bruco. Beh, forse la sensibilità di un Bruco è differente, disse Alice. In ogni modo, sono sicura che a me sembrerebbe molto strano. A te, disse il Bruco con sufficienza. E chi sei tu? Cosa che li riportò dove avevano cominciato. Alice era un po' seccata che il Bruco le rispondesse solo a monosillabi e, alzandosi un po' di più sulle punte, disse altezzosa: credo che spetterebbe a lei dirmi prima chi è lei. Perché? Disse il Bruco. La domanda la colse di contropiede, poiché non le veniva in mente alcun ragionevole cavillo, e il Bruco sembrava avere la luna tutta storta. Gli girò le spalle e fece per andarsene. «Torna qui!» le gridò il Bruco. «Ho una cosa importante da dirti!» L'invito era allettante, senza dubbio. Alice si voltò e tornò sui suoi passi. «Come back, baby!» Mai perdere le staffe, disse il bruco. Tutto qui? Disse Alice facendo uno sforzo per celare la sua stizza. No, disse il bruco. Alice pensò che in fondo poteva anche aspettare, visto che tanto non aveva niente da fare e poi chissà che non ne venisse fuori qualcosa di interessante. Per diversi minuti il bruco continuò a tirare di pipa senza dire una parola, ma finalmente sciolse le braccia, si tolse di bocca la cannula del narghilè e disse: «E così credi di essere cambiata, eh?» «Temo proprio di sì, signore», disse Alice. «Non riesco a far star fermi i ricordi e non riesco a mantenere la stessa dimensione per più di 10 minuti». «Che ricordi non riesci a far star fermi?» disse il bruco. «Per esempio, ho cercato di recitare Piccola Ape, ma mi è venuta tutta differente», rispose Alice in tono davvero malinconico. «Recita, caro vecchio buon papà», disse il bruco. Alice si mise a braccia conserte e cominciò. «Caro vecchio buon papà», strillò un giorno al padre il figlio, «che con il busto tieni il lardo su e alla chioma ben fonata fai la tinta bianco giglio, perché cammini sempre a testa in giù?» Replicò il papà al figliolo: «Quando ero un giovinetto, temevo per i postumi al cervello, mor che so di non averne mai avuto neanche un etto, e di un bello, ma di un bello strabello!» Ribadiva il figlio: «Vecchio, vecchio sei, vecchio e stravecchio, tra su di trippa, sugna e cicce unte, ma perché, sant'uomo, quando ti contempli nello specchio, cominci a piruettare sulle punte? Fin da giovane ho sfoggiato gran beltà e grazia apollinea», disse il papà scuotendo i grigi boccoli. «Silvit crem è il mio segreto, un segreto per la linea. Ricorda, silvit crem e ti dinoccoli», disse il figlio. «Vecchio sei, caro mio, vecchio e schiodato, riesci appena a sbiascicare un po' di strutto. Tuttavia, o magna sbafo, come fai così sdentato a sbaffare un'oca, zampe, becco e tutto? Se sapessi in gioventù la vitaccia coniugale che ho fatto litigando con tua madre, a forza di citarla e querelarla in tribunale, mi son venute le mascelle quadre. Sei più vecchio di Noè, la tua faccia è un ring di rughe, c'hai il Parkinson, l'Alzheimer e altri guai, tuttavia riesci a tenere in equilibrio 4 acciughe sulla punta del naso, come fai?» «Ho risposto a 3 domande e mi giran come pale», fa papà. Saputello, quante arie che ti dai per qualche quiz, e oltretutto senza sale, smamma Mike, o ti cavo lingue carie. Non me la conti giusta, disse il bruco. Temo che sia un po' diversa, disse Alice timidamente. È stata cambiata qualche rima qua e là. È sbagliata dalla A alla Z, disse il bruco con fermezza, e per qualche istante calò il silenzio. Il bruco fu il primo a romperlo. Di che grandezza vorresti essere? Oh, non è una questione di grandezza, disse Alice tutto d'un fiato. È che a nessuno piacerebbe cambiare così spesso, che credi? Io non credo niente. Alice non disse altro. Era la prima volta in vita sua che le capitava un tal bastian contrario. Quel bruco metteva a dura prova la sua pazienza. Come sei adesso, ti va bene? Disse il bruco. Ecco, mi piacerebbe essere un po' più grande, signore, se non le dispiace. 7 centimetri è un tale strazio di statura. Ma se è la statura ideale, disse il bruco con tono irato, ergendosi in tutta la sua altezza, 7 centimetri giusti. Ma non ci sono abituata, piagnucolò la povera Alice, e fra sé e sé pensò, se almeno queste bestiole non fossero così permalose. Oh, col tempo ti ci abituerai, disse il bruco, si rificcò in bocca la cannuccia e riprese a tirare. Stavolta Alice attese pazientemente che il bruco si decidesse a parlare di nuovo. Dopo un paio di minuti il bruco si tolse la cannuccia di bocca, fece un po' di sbadigli e si diede una rimescolatina. Poi prese a calarsi giù dal fungo e mentre si allontanava strisciando sull'erba buttò là. Un lato ti farà diventare più alta e l'altro lato più piccola. Un lato di che? L'altro lato di che? Pensò Alice fra sé e sé. Ah, del fungo, disse il bruco proprio come se l'avesse chiesto ad alta voce, e l'istante dopo era già scomparso di vista. Alice rimase pensierosa a contemplare il fungo per un po', cercando di scoprire quali erano i suoi due lati. Impresa non da poco, essendo il fungo perfettamente rotondo. Infine lo cinse con le braccia e, tendendole più che poteva, staccò un pezzettino dall'orlo con entrambe le mani. E adesso da che parte parto? si disse fra sé e sé e mordicchiò un pochino il pezzetto nella mano destra per provarne l'effetto. Un istante dopo sentì un colpo violento sotto il mento. Era andato a sbatterle sul piede. Era terrorizzata a morte da questo cambiamento così rapido, ma capì che non c'era tempo da perdere e si sbrigò a mangiare l'altro pezzo di fungo. Aveva il mento così schiacciato contro il piede che faticava persino ad aprire la bocca, ma infine ce la fece e riuscì a mandar giù un bocconcino del pezzo nella mano sinistra. «Oh, finalmente la mia testa è libera», disse Alice tutta contenta. Ma un momento dopo, con terrore, scoprì che non c'era verso di rintracciare le proprie spalle. Guardò in basso, ma tutto quello che riuscì a vedere fu un collo di lunghezza smisurata. Sembrava uno stelo in flessuoso equilibrio su un mare di foglie verdi laggiù, in fondo, sotto di lei. «Cosa sarà mai tutta quella roba verde?» disse Alice. «E dove sono andate a finire le mie spalle? Sventurate, manine, com'è che non riesco a vedervi?» Mentre parlava le mosse avanti e indietro, ma non successe nulla, a parte un leggero fremito laggiù, fra le foglie verdi. Poiché sembrava che non ci fosse alcuna possibilità di portarsi le mani fino alla testa, cercò di portare la testa fino alle mani e fu piacevolmente sorpresa di scoprire che il collo si piegava senza sforzo in ogni direzione, come un serpente. Era appena riuscita a curvarlo in un zigzag pieno di grazia e stava per tuffarlo dentro le foglie, che scoprì essere nient'altro che le cime degli alberi sotto cui prima aveva girellato, quando un sibilo acuto la fece ritrarre precipitosamente. Un grosso piccione l'era andato a sbattere sulla faccia e con le ali le stava mollando un frullo di ceffoni. «Serpente!» strillò il piccione. «Ma che serpente, serpente!» disse Alice indignata. «Fila via!» «Serpente! Serpente! Serpente!» ripeté il piccione in tono più pacato e con una specie di singulto aggiunse. «Le ho provate tutte, ma con voi non c'è niente da fare!» «Si può sapere di che cosa stai parlando?» disse Alice. «Ho provato tra le radici, e ho provato in riva al fiume, e ho provato tra le siepi!» continuò il piccione senza darle retta. «Ma questi serpenti, niente li ferma!» Alice era sempre più perplessa, ma ritenne inutile fare alcun commento finché il piccione non avesse finito. «Come se non fosse già un bel grattacapo covare le uova!» disse il piccione. «Devo anche sempre stare sul chivalà coi serpenti, giorno e notte! 3 settimane che non chiudo occhio! Oh, poverino, che vita!» disse Alice cominciando a capire. «E non ho fatto in tempo a trovare l'albero più alto del bosco?» continuò il piccione alzando la voce fino al garrito. «E a illudermi di essermi liberato di loro? E ecco che ti settano giù dal cielo! Uffa, serpente!» «Ma io non sono un serpente, ti dico!» esclamò Alice. «Io sono una... Insomma, che cosa sei tu?» disse il piccione. «Non star lì a inventarne una di sana pianta.» «Io sono una bambina», disse Alice, piuttosto dubbiosa, pensando a tutti i cambiamenti che aveva subito quel giorno. «E io dovrei berla?» disse il piccione in tono di profondo disprezzo. «Ho visto tante bambine in vita mia, ma con un collo come il tuo. No, no, tu sei un serpente, confessa! Adesso sta a vedere che mi dirai di non aver mai assaggiato un uovo.» «Certo che ho assaggiato le uova», disse Alice, che era d'indole sincera, «ma solo perché le bambine mangiano le uova come i serpenti, tutto qui.» «Non ci credo», disse il piccione, «ma se è vero, allora sono una specie di serpenti anche loro. Punto e basta.» A questo Alice non aveva pensato. Ammutolì per un paio di minuti, il che diede al piccione l'opportunità di aggiungere: «Stai cercando le uova, è chiaro come il sole, perciò bambina o serpente, che differenza fa?» «Beh, per me ne fa», disse Alice d'un fiato. «Si dà il caso che non sono a caccia di uova, e anche se lo fossi, non vorrei certo le tue. Io non bevo le uova crude». «Beh, e allora striscia al largo», brontolò il piccione tornando ad accovacciarsi nel suo nido. Alice cercò di abbassarsi più che poteva, ma il collo le si impigliava nei rami e di tanto in tanto doveva fermarsi per districarlo. Dopo un po', le venne in mente che nelle mani teneva ancora i pezzettini di fungo e si pose all'opera con grande diligenza, dando un morsettino prima all'uno e poi all'altro, ora crescendo, ora accorciandosi, fino a che non riuscì a ripristinare la sua statura normale. Era passato tanto di quel tempo, da quando era presa poco della misura giusta, che in un primo momento si sentì molto strana, ma in pochi minuti vi si riabituò e si mise a camminare parlando con se stessa come al solito. «Evviva! Sono a metà dell'opera! Però tutti questi cambiamenti fanno girare la testa, non si sa mai quello che si diventa da un momento all'altro. Comunque adesso sono tornata a quella di prima, e adesso mio bel giardino a noi due. È una parola, come faccio a entrarci?» Mentre se lo chiedeva, improvvisamente capitò in una radura dove c'era una casetta alta poco più di un metro. «Chiunque ci abiti», pensò Alice, «non è proprio il caso di comparirgli davanti alta così. Oh, no, no, no, gli farei venire un colpo dallo spavento». Perciò ricominciò a rosicchiare il pezzettino della mano destra e non si azzardò ad avvicinarsi alla casa prima di essersi ridimensionata sui 20 centimetri. Just any guy, what can you do? You see her walking on down the street. Look at all your friends that's gonna meet. You better hit her. Aldo Busi ha letto Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll per Edizioni Feltrinelli, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.